Merhaba, Açık Radyo 95.0'dasınız. İtabella'dasınız. 2021'in 1. ayının 21. gününden merhaba. Bugün en iyi dostlarımdan Francesca'nın doğum günü. Tantiagurifra. Karavanıyla dünyayı gezen bu dostumdan esinlenerek Vagabond'a şarkılar dinleyelim istedim. Bugün İtabella'da gitmeye dair şarkılar var. Itabella'nın ilk programında da dinlediğimiz Gianna Nannini, şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı ülkesindeki baskıdan Avrupa'yı dolaşmak için kaçan Polonyalı bir çocukla tanıştıktan sonra yazmış. Oldukça melankoli dolu, acıklı şarkının metni tıpkı Nannini'nin sesi gibi o yıllarda yaşanan iklimi anlamamızı sağlıyor. Berlin Duvarı henüz yıkılmamışken Sovyet Rusya ve Amerika arasındaki gerilimi anlatırken bir yandan da özgürlük ve yol hayatı için bir ilahi gibi bir parça. 1982 Latin Lover albümünde bulunan kayıtla radyonuzda sen Avrupa'nın çocuğu etrafına şans dağıtıyorsun. Ragazzo dell'Europa radyonuzda. Guardi verso di me, hai visto i tori nel sonno ed hai lasciato Madrid. Stai nei miei occhi e racconti le sirene e gli inganni del tuo sogno che va. Tu, ragazzo dell'Europa, tu non perdi mai la strada. Prendi a calci la notte, bevi fiumi di vodka e poi ti infili i miei jeans. Tu cominci sempre qualcosa, poi mi lasci sospesa e non parli di te. Tu, ragazzo dell'Europa, tu, col cuore fuori strada. Selvaggio, trovi sempre un passaggio per andare più in là. Viaggi con quell'aria precaria, sembri quasi un poeta dentro i tuoi boulevard. Tu, ragazzo dell'Europa, porti in giro la fortuna. Tu che incontri tutti per caso, non ritorni a Varsavia per non fare il soldato. Ora vivi in mezzo a una sfida per le vie di Colonia e non sai dove sei. Tu, ragazzo dell'Europa, tu non pianti mai bandiera. Tu, ragazzo dell'Europa, pianti mai bandiera. Tu, ragazzo dell'Europa. senti mai bandiera. Candan Annini'den Ragazzo dell'Europa'dan sonra şimdi sırada Paolo Conte var. 1981 yılında çıkan Paris Milongo albümü daha önce hiç Conte dinlememişler için, yeni başlayanlar için Conte sayılabilecek bir albüm. Bilinen bazı Conte parçalarının yanında Arjantinli besteci Atahualpa Yupanqui'ye saygı olarak bestelenen Alle prese con una verde milonga gibi bir parçayı da barındırıyor mesela. Ama bizim bugün dinleyeceğimiz, Itabella'da dinleyeceğimiz parçası yağmurlu bir Paris aşkı için söylediği, Paris'i insanların aşktan öldüğü misafirperver bir yer olarak nitelendirdiği Parigi ile Paolo Conte radyonuzda. Lo so che questo non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te sotto la pioggia, mentre tutto intorno è solamente pioggia e Francia. Chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole. Luce di pioggia e luce di conquista. Lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morir d'amore la gente. Zarara, zarirararara. Io e te, chissà qualcuno ci avrà pure presentati, e abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore in una stanza, mentre tutto intorno è pioggia, pioggia, pioggia e Francia. Conte'den dinledik Parigi. Şimdi sözleri Paolo Conte tarafından yazılan ve ilk olarak 1970 yılında Enzo Iannacci tarafından seslendirilen bir şarkı dinliyoruz. Bu şarkıda bir aşığın Meksika'ya düğün ümidiyle başlayan ama sonu hüzünlü biten yolculuğunu dinleyeceğiz.

giunga giù, giunga giù, giunga giù, la la la la la. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. A piedi da te, son 100 chilometri che io faccio per te, andavo a 100 all'ora per trovare la bimba mia, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Andavo a 100 all'ora per cantare la serenata, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Giunga, giunga, giunga, giunga, giunga, giunga, la, la, la. Giunga, giunga, giunga, giunga, giunga, giunga, la, la, la. Andavo al 100 all'ora'yı Gianni Morandi'den dinledik. Sırada Modenalı Francesco Guccini var. Daha evvelki programlarda bahsettiğimiz şair İtalyan müzisyenlerden biri olan Guccini, sadece eleştirmenlerin değil, aynı zamanda İtalya'nın 3 jenerasyonunu etkilemiş, 3 jenerasyonun beğenisini kazanmış bir müzisyen. Şimdi dinleyeceğimiz parçanın esin kaynağı Guccini'nin 1998 yılında Arjantin ve Patagonya'ya gerçekleştirdiği bir seyahat. Sözleri de şöyle: öyleyse neden Arjantin'e gitmemek, her şeyi bırakıp Arjantin'e gitmek, Arjantin'in nasıl yapıldığını görmek için. Argentina, radyonuzda. Treno, ma un treno è sempre così banale, se non è un treno della prateria, o non è un tuo Oriente Express speciale, locomotiva di fantasia. L'aereo ha l'aereo invece alluminio lucente, l'aereo è davvero saltare il fosso, l'aereo è sempre nel Spirit of St. Louis. Barone rosso, e allora ti prende quella voglia di volare che ti fa gridare in un giorno sfinito di quando vedi un giambo decollare e sembra che si innalzi all'infinito. E allora perché non andare in Argentina, mollare tutto e andare per vedere com'è fatta l'Argentina. Il tassista non perse un istante a dirci che era pure lui italiano, gaucho di Sondrio Varese, ghigna da emigrante, impantanato laggiù lontano. Poi quelle strade di auto scarburate, quella gente anni 50 già veduta, tuffato in una vita ritrovata, vera e vissuta, come entra a casa in un portone, si fresco scale odori abituali, posar la giacca, fare colazione, e ritrovarsi in giorni e volti uguali, perché io ci ho già vissuto in Argentina. Come mi chiamavo in Argentina e che vita facevo in Argentina. Labirinto di passi tuoi per quei selciati alieni, ti accorgi con la forza dell'istinto che non son tuoi e tu non gli appartieni. E tutto è invece la dimostrazione di quel poco che a vivere ci è dato. L'Argentina è solo l'espressione di un'equazione senza risultato, come i posti in cui non si vivrà, come la gente che non incontreremo, tutta la gente che non ci amerà, quello che non facciamo e non faremo. Anche se prendi sempre delle cose, anche se qualche cosa lasci in giro, non sai se è come un seme che dà fiore, può fogliare che vola ad un respiro. L'Argentina, l'Argentina, che tensione, quella croce del sud nel cielo perso, la capovolta ambiguità d'Arione, l'orizzonte sembra perverso. Ma quando ti entra quella nostalgia, prende volte per il non provato, c'è la notte, alla notte, e tutto è via, allontanato, e quella che ti aspetta un'alba uguale, che ti si offre come una visione, la stessa del tuo cielo boreale, l'alba dolce che dà consolazione. Francesco Guccini, Argentina ile Itabella'daydı. Şimdi 1981 yılında İtalya'da yılın şarkısı seçilen parçasıyla Claudio Baglioni var. 1951 Roma doğumlu müzisyen 3 oktavlık sesiyle 1970'ten beri kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Bu şarkıda bahsi geçen yolculuk yaşam yolculuğu ve bu yolculukta karşılaşabilecek zorluklar, rüyalar, umutlar, yanılsamalar, hayal kırıklıkları, umut ve cesaret mesajları dolu. Strada Facendo, yaptığım yol, sürdüğüm yol ya da diye çevirebiliriz. Radyonuzda. Io e i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme, con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città, accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Io le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello, col viso sopra il petto a leggere i miei dolori e i miei guai. Ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento, e dentro un senso di inutilità e fragile e violento mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. tutta questa gente che c'è al mondo. Io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai, e ho corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità. E giovane e invecchiato mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. Questa potrà mai cambiare la vita, ma che cos'è che mi fa andare avanti e dire che non è finita? Cos'è che mi spezza il cuore tra canzoni e amore, che mi fa cantare, amare sempre più, perché domani sia migliore, perché domani. Strada Facendo'dan Milva'ya geçiyoruz. Yine bir Berlin Duvarı Yıkılmadan öncesi şarkısı. Milva e Dintorni albümünün açılış parçası olan bu şarkı sanatçının en ünlü şarkılarından biridir. Birçok dilde söylenmiştir. Çok sayıda başka albümde yeniden yorumlanmıştır. Ayrıca şarkının yazarlarından Franco Battiato tarafından Giubbe Rossa albümünde canlı olarak da kaydedilmiştir. Böyle bir yorumu da bulunmaktadır. Parçada Şubat ayının yalnızlığı ve soğuğundan yakınılmaktadır. Kadanslı, takıntılı ritimli, karda Berlin'in uçsuz bucaksız bulvarlarında yürüyen ya da birdenbire Marlene'in köşede belireceğini düşünen bir kadının ayak seslerini neredeyse görmemizi sağlayan bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Birazdan dinleyeceğiniz gibi nakaratta patlar ve parçanın finalinde bu gerilim beklenmedik ama o dönem Doğu Almanya'sı için çok kıymetli bir soruyla çözülür. Schubert sever misin diye. Şimdi Milva Alexander Platz'la 95.0 Açık Radyo'da. Colpo venne il mese di febbraio, faceva freddo in quella casa, mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera, sì sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto, per aiutarmi. Ti vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi. Come ti trovi a Berlino? Rincasavo sempre tardi, solo i miei passi lungo i viali. E mi piaceva spolverare, fare i letti, poi restarmene in disparte come vera principessa, prigioniera del suo film, che aspetta all'angolo come Marlene. Hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Milva'nın Alexanderplatz'ından Rina Gaetano'nun Stockholm'üne gidiyoruz şimdi. Rina Gaetano'nun Stockholm şarkısı aslında bir Stockholm sendromu göndermesi. Çünkü bu şarkıda ortalama bir İtalyanın kendisini hapseden topluma sağlıksız bağımlılığını metaforik olarak tanımlayan bir parça bu. Çok sevdiğim, methettiğim, alışılagelmiş Gaetano kelime oyunlarına iyi bir örnek. Stockholm kalma, sakince varım. İyi Stockholm'a, Stockholm'a. Stockholm'da doluyum, bir bütünüm gibi gibi. Varoluş, stare, kon, ekiyle, kalma, kolmo gibi gibi pek çok kelimeyi sürekli bir arada kullana gülümseten bir sözcük dansına dönüşüyor parça bir noktada. Ve böyle ters köşeler yapıyor. Mesela her sabahın bir ceset olduğu bir balçık dünyasında yaşıyoruz. Öyleyse Stockholm'a gidelim. Rino Gaetano, Stockholm'a ile radyonuzda. Andare a Stoccolma, tutti insieme andiamo a Stoccolma, tutti insieme, ma con calma, sulla nave che porta a Stoccolma, donne bionde con fiori e ghirlande, tanti dischi, tante bande. Dai, andiamo a Stoccolma. Se mangi stai colmo, dove potrei dire con calma, io sto colmo, a Stoccolma. Stoccolma. che vanno a Stoccolma. Non c'è buche, né fango, né melma sulle strade di Stoccolma. Noi viviamo in un mondo di melma, dove ogni mattina è una salma. Quindi andiamo a Stoccolma. Dai, andiamo a Stoccolma, dove se mangi stai colmo, dove potrei dire con calma, io sto colmo a Stoccolma. Stoccolma ile Gaetano Itabella'daydı. Bugün Itabella'da gitmek, gezmek ve kalmaya dair ya da kalmamaya dair şarkılar var. Şimdi Lucio Battisti gelecek. Battisti ile ilgili ilk sözlükte bir yoruma denk geldim. Şöyle diyor: İtalya'nın popülerlik yönünden Orhan Gencebay, müzik anlayışı yönünden Fikret Kızıloku demiş. Ben bu yoruma çok güldüm. Çünkü çok doğru bir benzetme gibi geldi bana. 1998 yılında 55 yaşında 20'yi aşkın albümden sonra hayata veda eden Battisti, şimdi dinleyeceğimiz parçada fiziksel anlamda seyahat etmeyi, bir araba tamiri, arabanın mekanik aksamı üstünden hayata dair metaforlarla süsleyerek anlatmış. Si viaggiare, evet seyahat etmek ile Battisti Açık Radyo'da. Genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare, sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare. Gentilmente senza strappi al motore, del mio amico. Con le mani sporche d'olio. Capirebbe molto meglio, meglio certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare, sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo, con amore, dolce. Battisti'den 1939 Capri doğumlu bir müzisyen olan Giuseppe Faella'nın ya da bilinen sahne adıyla Peppino di Capri, Caprili Giuseppe'ciye geçiyoruz. 15 kez Sanremo Festivali'ne katılan ve 1973'te Un Grande Amore e Niente Più ve 1976'da Non La Fare Più şarkısıyla festivalin kazananı olan en büyük hitleri Champagne, Melancholia ve Roberto olan 1962'de Don't Play That Song ve az sonra dinleyeceğimiz Saint-Tropez Twist gibi pek çok parçayla ününe ün katan Peppino di Capri bizimle. Yıldızlar daha da güzel ama cennette değil, burada yanımda Saint-Tropez'de dediği Saint-Tropez Twist radyonuzda. A Saint-Tropez, la luna si resta con te. E balla il twist, contando le stelle nel cielo. Ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me. A Saint-Tropez. Ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me. A Saint-Tropez. Twist, twist, tutto il mondo. Twist, twist, sta impazzendo. Vuol tornare una lunga notte ancora mai più scorsa. ricordare Saint-Tropez. La gente si chiede perché tu balli twist portando un vestito in lame. Vuoi sembrare ancora più bella, ma l'amore è sempre quella se tu balli twist. Vuoi sembrare ancora più bella, ma l'amore è sempre quella se tu balli twist. Twist. La gente si chiede perché tu balli il twist portando un vestito in lame. Vuoi sembrare ancora più bella, ma l'amore è sempre quella se tu balli il twist. Ballano, cantano, senti che brivido, questa è la vita fantastica di Saint-Tropez. Peppino Di Capri'den dinledik, Saint-Tropez Twist. Şimdi İsviçre'de geçen bir zorunlu yolculuktan bahseden bir parçaya geçeceğiz. 1951 Roma doğumlu Francesco de Gregori, güncel olaylara ve tarihe yapılan göndermelerin yer bulduğu samimi, edebi, şiirsel, etik ve politik pek çok şarkı sözlerine sahip parçalara sahip bir otör müzisyendir. Biz şimdi sözlerini Lucio Dalla ile birlikte yazdıkları bir gurbet hikayesini dinleyeceğiz ondan. İsviçre'ye göç eden bir İspanyol işçisi olan Pablo'nun ölümünün öyküsünü anlatan 1975 Rimmel albümünden geliyor. Francesco de Gregori, Pablo ile radyonuzda. Nessuno più coltivare la vite, verde rame sulle sue poche, poche unghie, e troppi figli da cullare. E il treno io l'ho preso, fatto bene, spago sulla mia valigia, non ce n'era, solo un po' d'amore la teneva insieme, solo un po' di rancore la teneva insieme. Il collega spagnolo non sente, non vede, ma parla del suo gallo da battaglia e la latteria diventa terra. Prima parlava strano e io non lo capivo, però il pane con lui lo dividevo e il padrone non sembrava poi cattivo. Hanno pagato Pablo, Pablo è vivo. Hanno pagato Pablo, Pablo è vivo. Hanno pagato Pablo, Pablo è vivo. Hanno pagato Pablo, Pablo è vivo. Con le mani io posso fare castelli, costruire autostrade e parlare con Pablo. Lui conosce le donne e tradisce la moglie, con le donne ed il vino e la Svizzera verde. E se un giorno è caduto per caso pensando al suo gallo o alla moglie ingrassata come l'ha fatto. Prima parlava strano e io non lo capivo, però il fumo con lui lo dividevo e il padrone non sembrava poi cattivo. Hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo. Hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo. Hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo. Pablo ile Francesca Gregori radyonuzdaydı. Bugün Itabella'da Vegabond arkadaşım Francesca'dan esinlenerek Gitmek, Gezmek ve Kalamamak namına şarkılar dinlediniz. Şimdi Rita Pavone geliyor. Rita Pavone hayatının ilk yıllarını Torino'nun Borgo San Paolo bölgesinde geçirmiş. Babası Sicilyalı bir fiyat işçisi, annesi ise Ferrara asıllı bir ev hanımıymış. Sizlere daha önceki programlarda tanıtma şansı bulduğum Rita Pavone'nin sadece İtalya'da değil, pek çok ülkede bilinen bir müzisyen, gezgin bir müzisyen olduğundan bahsetmiştim. O yüzden bu Itabella'yı onunla kapamak istedim. Cansın sayesen ben, Itabella'daydınız. Bir sonraki programa dek hoşça kalın. Şimdi Rita Pavone, Son finite le vacanze, Tatil Bitti ile Açık Radyo'da. Davvero, ma annoiavo da morire. Finalmente sono tornata da te. Con sono un po' sbiadito, ci rivedremo ancora. Come a primavera mi dirai: usciamo, usciamo, usciamo questa sera. Ma questa volta, amore, io ti dirò di sì. E sai perché? E sai perché? Non posso fare a meno di te. Sempre sola con tutti i miei pensieri, io mi chiudevo in me, perché così, perché così, perché così, immaginavo di trovarmi con te. Son finite le vacanze, per fortuna son finite davvero. Con te.